Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenuti a Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e lo sviluppo delle idee mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani, con l'intento di favorire una cultura della convivenza fra le specie, nella piena dignità di tutti gli esseri viventi. È la puntata numero 559 e parleremo del Mar Mediterraneo, di scuola e di caccia, di orsi e di gatti, di diavoli e macachi. Come al solito saremo accompagnati dalla musica scelta dal nostro Giuseppe Coco e non mancherà il suggerimento gastronomico a tema del tosco vegan chef Gabriele Palloni. Cominciamo citando un lungo articolo comparso sul quotidiano Domani a firma di Alessandro Vanoli, saggista apprezzato per i suoi lavori di storia sociale. L'articolo è dedicato al Mediterraneo e alla sua tumultuosa storia. Mare di scambi commerciali e di incontri umani, ma anche al centro di guerre e infinite contese, oggi il Mare Nostrum ha perso gran parte della sua connotazione romantica. È un cimitero di fuggiaschi, lasciati morire dal cinismo dei paesi di agognato approdo, soffre da decenni gli assalti dell'industria del turismo, che porta cemento e sovraffollamento, ed è invaso dalle plastiche, è ormai una zuppa di plastiche, come ha scritto qualche anno fa un gruppo di ricercatori al termine di un'indagine sull'inquinamento di questo mare così caro alla nostra cultura. La verità, dice Vanoli nell'articolo su Domani, è che del Mediterraneo non ce ne frega più niente. Ha smesso di innervare la nostra cultura, di ispirare i nostri pensieri. Viene usato, sfruttato, maltrattato. Possiamo raccontare, scrive Vanoli, di una nostra antica casa comune. Possiamo parlare di morti affogati, di Venezia che muore, di pesci soffocati dalla plastica, ma a noi fa lo stesso effetto. Girati di pancia sul lettino, mandiamo a quel paese l'ennesimo venditore di bigiotteria passato lì a fianco, prima di perderci in qualche discussione politica, dove dedurremo che è tutto uno schifo e che nessuno fa niente. Stiamo insomma sprofondando, dice Vanoli, nell'ignavia e nell'indifferenza. Come uscirne? Vanoli ha un'idea e riguarda il modo di raccontare le storie, compresa la storia del Mediterraneo. Perché non proviamo, scrive, a raccontare il Mediterraneo in un altro modo? Provando ad aggiungere un tassello a questa narrazione, un tassello fatto di flora e fauna, tanto per cominciare. Proviamo a pensare, cioè, che le patelle, i crostacei, i tonni e i delfini siano parte integrante di questa nostra storia. Separati da loro da alcune antichissime scelte evolutive, smettiamola di guardarli dall'alto in basso e proviamo a pensare una storia in cui le radici, le nostre e le loro, si possano raccontare assieme, come parte di un sistema più complesso. Ecco, ci pare che Vanoli apra davvero un varco emotivo, culturale, perfino politico, nell'oscura cappa che ci tiene ancorati a una visione duramente antropocentrica della vita sul pianeta Terra. Una visione che ha fatto da scenario a scelte rivelatesi disastrose, al punto da mettere in discussione la sopravvivenza stessa della nostra specie. La sfida allora è proprio quella indicata da Vanoli: percepire la storia passata e quindi il futuro, allargando lo sguardo alle altre forme viventi. Il Mediterraneo, nella nostra parte di mondo, può essere un buon punto di partenza. Torniamo a parlare degli orsi trentini per l'ennesimo colpo di scena giudiziario. Stavolta tiene banco il caso dell'orsa classificata JJ4, con il freddo gergo dei laboratori di ricerca. JJ4 era stata oggetto di un ordine di cattura firmato dal presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, per avere aggredito in un bosco, lontano dai sentieri tracciati, due cacciatori escursionisti. Si era trattato con ogni probabilità di un gesto compiuto dall'orsa in difesa dei tre cuccioli, protetti di fronte alla presenza dei due umani. Le associazioni animaliste EMPA e OIPA avevano presentato ricorso al TAR contro l'ordinanza, ma il TAR aveva confermato la legittimità della scelta di Fugatti, sostenendo che il provvedimento era stato correttamente emanato per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica. JJ4, insomma, era stata ritenuta un individuo pericoloso. Il Consiglio di Stato, ecco la novità, nei giorni scorsi ha ribaltato la sentenza, ordinando quindi che JJ4 resti libera. La decisione è stata firmata dal presidente della terza sezione del Consiglio di Stato, l'ex ministro degli esteri ed ex commissario europeo Franco Frattini. La sentenza è molto dettagliata ed entra nel merito della questione, perciò è stata accolta dalle associazioni animaliste come un successo destinato a fare scuola. Secondo il Consiglio di Stato, la tutela della vita e del benessere di esemplari di specie protetta in modo speciale e rigoroso non può essere superata da disposizioni autonome della provincia. Il Consiglio di Stato considera poi il danno irreparabile, così viene descritto, che la cattura di JJ4 causerebbe ai suoi tre cuccioli, destinati con ogni probabilità alla morte. Su questo punto il TAR aveva affermato addirittura il contrario, sostenendo che la presenza o meno della madre non influisce sulla possibilità di sopravvivenza dei cuccioli. Una valutazione che era stata contestata dal mondo animalista perché contraria al buon senso, alle conoscenze acquisite e non supportata dalla minima valutazione scientifica. Fugatti ha accettato naturalmente la sentenza, senza però rinunciare ad attaccare i giudici, indicati come responsabili di un'eventuale nuova aggressione da parte dell'orsa. Un'altra battaglia legale in corso riguarda i macachi, oggetto di una controversa sperimentazione scientifica delle università di Parma e Torino. La LAV, Lega Antivivisezione, in particolare ha ingaggiato una lotta a tutto campo contro questo progetto, una lotta fatta di petizioni, manifestazioni pubbliche, ricorsi legali. L'ultima notizia è del 9 ottobre scorso, quando il Consiglio di Stato, ancora una volta, ha ordinato la sospensione del progetto, in modo che possa essere condotto, parole dei giudici, un approfondimento scientifico, analitico e motivato da parte di un ente terzo che dovrà confrontarsi con le parti. Le università e lo stesso Ministero della Salute avevano fatto notare al giudice che un ritardo o una sospensione della sperimentazione avrebbero messo a rischio un finanziamento europeo di 2 milioni di euro. Ma su questo punto il Consiglio di Stato è stato categorico. Tale eventualità è recessiva rispetto alla cecità provocata in 6 esseri senzienti, con indubbia sofferenza e con la successiva certa destinazione all'abbattimento. In attesa degli approfondimenti chiesti dal Consiglio di Stato, c'è da registrare sul punto il nuovo scontro fra la LAV e la senatrice a vita Elena Cattaneo, nota per le sue posizioni molto dure, potremmo dire categoriche, sulla necessità della sperimentazione animale. È scandaloso, dice la LAV, il tentativo della senatrice Cattaneo di influenzare, nelle ore precedenti la sentenza del Consiglio di Stato, la decisione della commissione giudicante. Inaccettabile che una senatrice a vita sfrutti la sua posizione per pubblicizzare note posizioni pro vivisezione e millantando che la sospensione del progetto comporterebbe la rinuncia alla ricerca scientifica o addirittura la criminalizzazione della stessa. Concetti non solo falsi, ma scorretti nei confronti dei cittadini che la senatrice dovrebbe rappresentare. Se la senatrice impiegasse pari zelo per difendere e lavorare a sostegno della ricerca con i metodi alternativi, come richiesto dalla legge, avremmo finalmente un'Italia rivolta al futuro, invece di assistere, incredibilmente, alla difesa di un modello obsoleto risalente a fine Ottocento, che ci lascia fanalini di coda nell'Unione Europea. Così la LAV. La sfida legale, come ben si vede, si svolge sullo sfondo di un confronto culturale profondo attorno a una nuova idea di scienza, aperta, come forse direbbe Alessandro Vanoli, alla considerazione di altri tasselli della narrazione collettiva. Nobody does it better. Makes me feel sad for the world. Nobody does it half as good as you. Somehow you found me. I try to hide from your love, love. Like heaven above me, the spiral of me is keeping all my secrets safe tonight. And nobody does it better. Sometimes I wish someone would. Nobody does it quite the way you do. Why'd you have to be so good? Why'd you hold me? Hold me. I guess I'm in varie parti del mondo l'estinzione di specie animali sta trasformando i paesaggi e il senso stesso della vita. e non mancano i tentativi di invertire la rotta, usando tutti i metodi disponibili. Dall'Australia arriva la notizia di 11 diavoli della Tasmania reintrodotti in natura. All'interno del santuario realizzato a Barrington Tops, a nord di Sydney, nell'Australia continentale, in un'area di 400 ettari. Una reintroduzione che avviene 3.000 anni dopo la scomparsa di questi animali. Un tempo tali marsupiali carnivori erano presenti anche in molte altre aree del continente, ma si pensa che l'arrivo degli animali e del dingo ne abbia provocato la progressiva scomparsa. I diavoli della Tasmania pesano circa 8 kg, mangiano carcasse, ma possono anche aggredire animali di grandi dimensioni, come pecore e piccoli canguri. Secondo Tim Faulkner, presidente di OCARC, una delle associazioni conservazioniste che si sono occupate dell'operazione, si tratta di un passo storico, simile a quello che ha permesso ai lupi di tornare nel parco di Yellowstone negli Stati Uniti negli anni 90. Nelle nostre martoriate ma bellissime campagne, lungo laghi e fiumi, all'interno dei boschi, risuonano spari, grida, latrati. È la pratica della caccia che ogni anno ci accompagna e che non ci stanchiamo di avversare. L'attività venatoria, e forse non tutti lo sanno, è anche materia di apprendimento e valorizzazione nelle scuole, grazie alle associazioni di cacciatori che sono riuscite a farsi passare come sostenitrici dell'ambiente e quindi capaci di svolgere una funzione socialmente positiva. Restiamo Animali su questo punto è di tutt'altro avviso e perciò figura fra i firmatari di una lettera appello alla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina affinché sia interdetta la presenza dei cacciatori nelle scuole. È una lettera che ha fra i primi firmatari la psicologa Anna Maria Manzoni, le scrittrici Susanna Tamaro e Dacia Maraini, il disegnatore Bruno Bozzetto, la giornalista Margherita D'Amico, la giurista Silvia Buzzelli e associazioni come LAC, LAV, LEAL, Essere Animali, LIDA, LIPU, Vita da Cani e molte altre. Non si può che rimanere sconcertati, si legge nella lettera, che la difesa dell'ambiente, argomento di estrema attualità e pregnanza, possa essere trattato da chi vede gli abitanti di quello stesso ambiente come vittime da uccidere per pura passione, come gli stessi cacciatori dichiarano nei loro siti. Siti in cui vengono descritti l'eccitazione e l'entusiasmo che li accompagna nell'inseguire, ferire, uccidere animali terrorizzati in cerca di fuga. Palpitante avventura, magia, ardore, ebbrezza, euforia sono i termini ricorrenti. Tutto a norma di legge, ovviamente, ma non per questo meno inquietante. Implicitamente si sostiene una visione del mondo in cui la violenza a danno dei più deboli è normalizzata, sdoganata, è rinforzata dal contesto, quello scolastico, dove i messaggi acquistano autorevolezza in quanto emanazione delle figure investite di un ruolo educativo. Autorizzare i cacciatori in quanto tale interventi pedagogici e formativi equivale a richiedere ai ragazzi di accettare l'idea che l'amore sia estrinseco nell'uccisione, che il rispetto sia compatibile con la sopraffazione di chi è indifeso. I cacciatori sostengono, infatti, che proprio amore e rispetto per la natura siano i sentimenti che li inducono a violentarla e ad ucciderne gli abitanti. E ancora, in un altro passaggio della lettera, davanti a tutto questo urge richiamare il senso e il significato dell'educazione, che dovrebbe essere prima di tutto educazione al rispetto dell'altro, a cominciare da chi è più debole. Dovrebbe essere proposta di modelli empatici in cui l'identificazione con l'altro sia la strada maestra per contrastare violenza e crudeltà, nel riconoscimento fondamentale del diritto altrui alla vita, vissuta nei luoghi che sono propri. Nulla di più lontano dall'atteggiamento predatorio e violento di chi alla natura e agli altri animali si avvicina con il fucile imbracciato per esercitare sugli altri, per puro divertimento, un autoattribuitosi diritto di vita e di morte. La caccia, chiude così la lettera, incredibilmente equiparata a uno sport, è vietata ai minori. A quegli stessi minori non può essere imposto a scuola, che è casa loro, lo sguardo sulla vita, l'ambiente, gli altri animali, che ne è alla base. Per questo chiediamo che sia il ministro della pubblica istruzione a emanare linee guida che impongano per legge ciò che a volte non è imposto da un'etica personale, dimentica di valori basici, quali rispetto, pace, non violenza. Ogni settimana il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni ci regala una delle sue ricette che ha preso ispirazione dai temi affrontati nella puntata. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro Cucina regionale italiana vegana, edito da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. After my story is still untold, but I'll make my own happy ending. In tema di scuola oggi vi propongo una ricetta adatta per una merenda alternativa, in un periodo che non è facile per nessuno, tantomeno per le ragazze e i ragazzi che devono mantenere alta la loro attenzione. Gli ingredienti per 4 persone per le tortine dolci di patate e cioccolato sono 600 g di patate, 50 g di farina di ceci, 80 g di zucchero di canna, 50 ml di latte di nocciola o un altro latte vegetale, 100 g di cioccolato fondente, un cucchiaio di olio di semi di girasole, un pizzico di curcuma in polvere, un pizzico di cannella e un pizzico di sale. Infine dello zucchero a velo per decorare. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone. Lavate e lessate le patate. Una volta cotte, senza lasciarle raffreddare troppo, sbucciatele e schiacciatele. In una bowl stemperate la farina di ceci con il latte di nocciole, unite lo zucchero, il sale, la cannella e la curcuma ed impastate con le patate schiacciate, lavorando fino ad ottenere un impasto compatto ed omogeneo che lascerete riposare coprendo con della pellicola per alimenti. Dopo circa un'ora recuperate l'impasto e stendetelo su una spianatoia ad un'altezza di mezzo centimetro circa. Con un coppapasta cilindrico ricavate 16 dischi. Adagiate al centro di 8 dischi un quadretto di cioccolato fondente e coprite con gli altri 8, facendo pressione sui bordi affinché le tortine siano ben sigillate. Rivestite con la carta forno una teglia e spennellatela con olio di semi di girasole. Adagiate le tortine e spennellate anche queste con pochissimo olio. Fate cuocere in forno statico a 200 gradi per circa 20 minuti, quindi sfornate e lasciate intiepidire. Servite spolverando con zucchero a velo. And every time I turn around, our love is stuck on replay. apriamo con una notizia curiosa che arriva da Israele, dove a una trentina di gatti che vivono nel cortile della Knesset, il Parlamento israeliano a Gerusalemme, è stata concessa la residenza permanente. I gatti hanno nomi come filibuster, lobby, revision, ethics, tutti termini presi dal lessico politico e parlamentare. E nonostante la protesta di alcuni deputati, il direttore della Knesset, Sami Baklash, ha deciso, d'accordo con l'ufficio ambiente, di formulare un regolare piano di adozione. Così sono stati chiamati i servizi veterinari per le sterilizzazioni e le vaccinazioni e un ampio parco che circonda la struttura è stato destinato a ospitare la colonia felina. I gatti sono stati definiti ufficialmente una parte importante dell'ecosistema della Knesset e hanno quindi acquisito piena cittadinanza. Ci pare un bel esempio di civiltà. Down on Bowery they lose their ball eyes and their lip mouths in the night, and stumbling through the street they say, sir, do you got a light? And if you do, then you're my friend, and if you don't, then you're my foe. And if you are a deity of any sort, then please don't. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.